Effetto Mondo. Eccoci qua, Giulia Crivelli, buongiorno. Cosa abbiamo ascoltato nell'introduzione di Effetto Mondo? Sai che è la mia passione, insomma, questa canzone composta da Bono e Will.i.am, The Black Eyed Peas, per raccogliere fondi. Però ne abbiamo già parlato in passato, ma mi piaceva questi primissimi secondi, perché come avete sentito era una registrazione fatta dai balconi italiani, perché siamo stati i primi in Italia ad avere questa iniziativa spontanea nelle prime settimane di lockdown, in cui le persone uscivano sul balcone e cantavano in questo modo liberatorio. E in tantissimi altri paesi poi ci hanno seguito, dalla Francia al Regno Unito, ciascuno con le sue caratteristiche. Però questo ricordo mi dà lo spunto, perché come sappiamo, insomma, siamo ancora oggi tra i paesi più colpiti da questa pandemia, e quindi siamo un po' l'osservato speciale anche nella fase 2. E quindi Financial Times oggi, prima pagina, c'è questa foto scattata, si dice, vicino a Milano, ed è una famiglia italiana che si ritrova, perché si vede chiaramente dalla foto, dove tutti hanno delle mascherine, tutti la indossano in modo corretto, che però ci sono tre generazioni che si rincontrano, quindi nonni, figlia e poi i nipoti. Sul Washington Post invece c'è una bella foto e il titolo sotto: l'Italia prova a ripartire, in una strada di pedonale di Roma, con una macelleria, quelle vecchie insegne molto belle, tradizionali. E ancora anche sul Daily Telegraph c'è la stessa foto che ha Financial Times, mentre l'Independent, e qui vabbè, forse è un po' più così, meno lusinghiero, è una foto scattata all'uscita della Circumvesuviana, dove quella devo con dire gli affollamenti. Le persone. Sì, sovraffollamento, tutti con la mascherina, però purtroppo, ecco, lì la distanza tra le persone sicuramente non c'era, ma ne abbiamo parlato tanto anche noi, insomma, diciamo, è una che piccola... Sì, no, diciamo che è stata forse l'unica macchia ieri, l'unica cosa che non è andata come avrebbe dovuto, almeno diciamo giornalisti, fotografi scatenati, ma anche forze dell'ordine che hanno fatto oltre 200.000 controlli. Alla fine sembra che quella sia stata una delle poche situazioni che non erano, diciamo, in linea con quello che dovrebbe essere. Speriamo si risolva, questo sì. E poi l'ultima, questo non è in prima pagina, c'è solo un richiamo in prima pagina, invece sul New York Times ci sono delle foto di Roma, ti lascio immaginare, spettacolari, e il titolo del reportage di Jason Horowitz è l'ultimo saccheggio di Roma è stato nel 537 e nel 2020 è stata di fatto messa in silenzio, però naturalmente con tutti i vantaggi che questo ha avuto per chi in qualche modo, magari per appunto adducendo ragioni giornalistiche o di lavoro, ha potuto girarla in questi giorni e fotografarla. Insomma, la città eterna è la città eterna. Certo, quindi titoli dei giornali internazionali sull'Italia, occhi puntati, fase 2, Stati Uniti, Spagna, Italia in ordine di casi. Questa è ancora la triste classifica dei casi. Per quanto riguarda le vittime, invece siamo il secondo paese davanti alla Spagna, ma la Gran Bretagna, che ha meno casi di noi, ci sta comunque raggiungendo purtroppo come numero di vittime. Tornando invece, credo, alla pagina americana, Giulia, perché è sempre ricca di notizie. Sì, naturalmente il tema è quello di queste accuse, ne abbiamo parlato ieri, da una parte di Donald Trump, seguite da quelle di Mike Pompeo, che è il segretario di Stato, quindi l'equivalente del ministro degli esteri, poi ci si è messo anche il ministro della difesa, poi ci si è messo anche il ministro dell'economia Mnuchin, il segretario del tesoro, quindi insomma tutti sulla scia di Donald Trump. Tra l'altro accuse simili, ne avevamo già parlato anche di questo, vengono dal Regno Unito, che tu hai appena citato, e anche dall'Australia, e già l'Australia, che le aveva mosse una decina di giorni fa, aveva già avuto delle risposte molto dure da parte di Pechino. La novità, la segnala Wall Street Journal, ma anche altri giornali, è che Pechino deve anche fare i conti con questo rapporto interno, che mostra come, dopo magari un'iniziale ammirazione per come era stata gestita il confinamento e il superamento della crisi di Wuhan, adesso agli occhi occhi del mondo, potremmo dire così, la Cina torna a essere un paese poco trasparente, poco democratico, e il paragone fatto, e sicuramente non è lusinghiero, è con il 1989, con il massacro in piazza Tiananmen degli studenti, soprattutto, che cercavano di dimostrare in modo pacifico. Ricordiamo tutti, io e te soprattutto, che insomma a quell'epoca eravamo già giovani adulti, sì. Lo shock del mondo per quella dimostrazione di non democrazia. So che vuoi farci sentire anche la voce del governatore della, sì, California, perché? Perché guarda, loro adesso qui sentiremo dalla, anzi sentiamolo prima, il governatore Newsom, sappiamo democratico, e che aveva già insomma cercato di pensare a una fase 2, soprattutto per quanto riguarda la scuola, ma per quello che riguarda le attività commerciali, ieri ha spiegato come accadrà fine del lockdown. Thursday, the 7th, we will put out the guidelines. If the guidelines are met and modifications are made, then people can start reopening with those modifications in these particular sectors as early as Friday. Ecco, mi è sembrato molto interessante perché da una parte ha detto più volte, capisco che può sembrare molto complicato questo dividere fase 2 in California, addirittura ce ne saranno 4, però ha detto giovedì noi daremo delle indicazioni molto precise, i negozi, gli esercizi commerciali, queste guidelines che rispetteranno queste misure, che peraltro naturalmente tutti hanno cominciato già a preparare, la sanificazione, il progettare ingressi a singhiozzo, diciamo, il venerdì giorno dopo potranno riaprire. Chi invece non avrà queste, non sarà in regola, non lo potrà fare. E mi è sembrato, perché da quello che insomma sento anch'io per le aziende che seguo del settore della moda e anche per i ristoranti naturalmente, il tema è questo, cioè d'accordo riaprire, però diteci esattamente che cosa dobbiamo fare. Ho visto che oggi c'è la discussione sul plexiglass anche tra commensali, no solo tra tavolini, cioè in questo tipo di incertezza è ovvio che tutti esitano, e nel caso particolare della California, che ha concesso moltissimi aiuti e tra l'altro ha anche già chiesto accesso ai fondi federali per non andare in bancarotta come Stato, si aggiunge il fatto che molti prestiti, lo abbiamo detto, sono fatti a condizione che le aziende, anche le piccole aziende come gli esercizi commerciali, si impegnino a riassumere il personale, ma naturalmente possono prendersi questo impegno solo se vedono una prospettiva di ritorno di introiti. Se questo non c'è, è un po' un cane che si morde la coda. Quindi mi è sembrato insomma un caso interessante. Credo che in questi momenti sia anche giusto vedere chi, appunto, tutti guardano l'Italia, magari guardiamo anche noi quello che stanno facendo gli altri, per vedere se magari hanno qualche idea da copiare, perché no? Ecco, a proposito di quello che stanno facendo gli altri, cos'altro ci segnali di curioso, di interessante, di un po', diciamo, che esca anche dai soliti sentieri, perché insomma il dibattito ripartire, non ripartire, come eccetera, lo stiamo trattando da giorni, è un po' lo stesso in tutti i paesi, no? Però hai qualche altra notizia, sì, interessante? Guarda, da una parte c'è questa cosa dei parrucchieri, perché può sembrare una sciocchezza, io ho calcolato che sono 3 mesi che non aggiusto il colore dei miei capelli, non è bello da vedere, e sicuramente insomma abbiamo sentito anche il nostro presidente Mattarella dire in una diretta rubata, in un fuori onda rubato, sentite, anch'io non posso più andare dal barbiere, quindi è un problema che forse ci fa sorridere, ma ne abbiamo bisogno, e però esiste. Quindi per esempio ABC, che è un quotidiano spagnolo serissimo, ha tutta la prima pagina con una grande foto di una ragazza che appunto mette la tinta dove c'è una palese crescita di una signora, e le stesse foto di questi dei negozi di parrucchieri che hanno riaperto con tutte le precauzioni del caso ci sono anche su El País e su El Mundo, quindi evidentemente gli spagnoli insieme a noi forse sono i più ansiosi di tornare a fare di tornare a usufruire di questo servizio. Mentre ho trovato molto, sì, divertente sul Wall Street Journal, che peraltro naturalmente parla anche di quello che potrebbe essere il prossimo pacchetto di aiuti, ma soprattutto, questo è un tema che ci riporta in qualche modo in Italia ma anche in altri paesi, soprattutto della necessità di introdurre degli scudi, possiamo dire così, degli scudi civili e penali per i proprietari di aziende che decidono di riaprire, perché comunque anche negli Stati Uniti, con un diritto del lavoro completamente diverso dal nostro, però si profilano delle cause per chi in alcune filiere per esempio quella della carne negli Stati Uniti, ha riaperto e ci sono oggettivamente molte persone contagiate o addirittura che hanno perso la vita. Quindi da una parte quello, gli aiuti, e poi come curiosità si chiede l'esperta di moda del Wall Street Journal, ma finito questo lockdown la tuta ce la toglieremo, perché è veramente comoda la tuta, pure diventerà una seconda pelle, ormai non potremo più fare a meno, chissà. Quesiti da fase 3 per l'ufficio. Quesiti da fase 3. Grazie Giulia, ci risentiamo domani a con voi. Te naturalmente, è tutto per la puntata di oggi, con Peter Bescapè in regia, Claudia Schiattoni in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao da Alessio Maurizio.